Eccoci qua, intanto grazie alla Fondazione naturalmente per avermi invitato, è molto difficile intervenire su questi temi dopo che si sono espressi davvero i massimi esperti della questione del rapporto tra sport, giovani, abbiamo sentito anche videogame da un punto di vista scientifico con massimo rigore. È molto molto complicato provare ad aggiungere qualcosa e francamente penso che non ci proverò. Io mi chiamo Antonio Paolini e studio tutt'altro, studio l'industria dei media, l'impatto dell'industria sulla società, soprattutto non solo l'evoluzione tecnologica che viene forse anche spesso sopravvalutata, ma l'evoluzione dei modi di fare soldi con le nuove tecnologie, perché molto spesso diciamo non sono cattivi i social, è come li usi, è vero, ma io aggiungo, non sono cattivi i social, è come qualcuno decide di farci i soldi a cambiare le cose. E naturalmente, estendendo il discorso al mondo dell'industria videoludica, non andiamo molto lontano da questo concetto. Il modo in cui si fanno i soldi fa davvero la differenza. Quindi proverò a introdurre magari due angolazioni del tutto alternative rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso per quanto riguarda l'impatto dell'industria videoludica, in particolare sulla nostra società, sui nostri ragazzi, e sono due angolazioni quasi ignorate nel dibattito pubblico. Da un lato, come ci viene raccontato, perché vedete, chi studia tutte queste cose da un punto di vista scientifico poi però arriva al cosiddetto grande pubblico, che non sono altri interlocutori scientifici, attraverso degli intermediatori che sono l'industria dei media. Ora, l'industria dei media non è assolutamente neutrale, perché per anni l'industria dei media ha l'industria dei media rivendica una missione pubblica, ma è un'industria, quindi come primo obiettivo ha quello di fare profitti. E quindi, per esempio, l'industria videoludica in larghissima misura viene innanzitutto vista come un concorrente. Gli occhi delle persone che vanno su altri schermi, che non sono più gli schermi che c'erano prima, che vanno su altri supporti, che non sono più il quotidiano che tenete in mano, o il programma radiofonico che state ascoltando. Il videogioco è un attention drainer, compie un furto di attenzione. Quindi questo è il modo in cui dall'interno l'industria dei media vede l'industria videoludica, e poi naturalmente, siccome rivendica anche una funzione pubblica, traveste da impegno contro i rischi del videogioco il proprio interesse, che è quello di riportare gli occhi delle persone là nel mondo di chi per anni ha garantito la trasmissione di soldi e valori alle generazioni precedenti. Ora, se vediamo in che modo è evoluta l'industria dell'informazione, per esempio, negli ultimi 40 anni, mi sembra di poter dire che tutto questo straordinario lavoro di protezione delle nostre coscienze a un certo punto si sia quantomeno affievolito. Se proviamo a pensare a cosa è diventato l'infotainment, a cosa sono diventati i talk show, eccetera. Quindi, ecco, è importante mantenere questo filtro nella valutazione del racconto che viene fatto. E poi, naturalmente, c'è l'industria videoludica che a sua volta fa i propri interessi, quindi dobbiamo sempre pensare che di là non è che ci sono delle persone malvagie che concepiscono Fortnite come un gioco violento perché fondamentalmente vogliono educare delle nuove generazioni di piccoli Hitler. Non è questo il punto, è che tatticamente riuscire a commercializzare un videogame che vi rende dipendenti, con una parola anglosassone che ha un significato completamente diverso da noi per dire un videogioco che rende dipendenti, è addicted, quindi in realtà ha una connotazione positiva nel mondo anglosassone, non solo negativa come da noi, perché alimenta un'industria, una delle più antiche software house indipendenti. All'inizio i videogiochi venivano sviluppati dalle stesse case produttrici delle console, no? Atari, Mattel. A un certo punto arrivarono le prime software house indipendenti, una delle primissime si chiamava Activision ed esiste ancora oggi, ed è ancora un gigante dell'industria videoludica. Come ha fatto a resistere tanti anni? Sviluppando videogiochi che causavano dipendenza. E questo sicuramente è un aspetto molto negativo. Come reagisce l'industria dei videogiochi alle accuse di rendere i nostri ragazzi dipendenti? Con delle operazioni, oddio, non fa come l'industria dei media che rivendica di avere una missione pubblica, ma fa delle operazioni di pubbliche relazioni che travestono da corporate social responsibility, che ritengono di avere una responsabilità sociale, e così introducono tutta una serie di elementi, come per esempio il tribunale contro i giocatori violenti, oppure istituiscono un'associazione che crea, diciamo, il criterio di violenza del videogioco, che si chiama PEGI. Insomma, provano addirittura a compiere delle scelte industriali che tendono ad allontanare il dibattito minaccioso per loro. Per esempio la scelta della Nintendo di introdurre una console che riportasse in salotto i ragazzi a giocare con i genitori, la Wii, anche con l'esperienza fisica, e questo dopo anni in cui la Nintendo era un'esperienza molto solitaria, no? Sulle console precedenti. Quindi diciamo che ciò che muove le due industrie considerate, quella che racconta il fenomeno, l'industria dei media, e quella che poi il fenomeno industrialmente lo sviluppa, l'industria dei videogiochi, persegue un solo fine, quello di proteggersi dalle minacce, minacce industriali, minacce di pubbliche relazioni e così via. Sapete che molto spesso l'industria videoludica non ha in questo momento un freno alla crescita del proprio business. L'unico reale freno che potrebbe trovare, a parte la concorrenza, per carità, è appunto il rischio di leggi contro i videogiochi, il rischio di dazi, il rischio di tasse. Molto spesso questi giochi sono a livello cloud, quindi sono gestiti da grandi operatori over the top che fanno il grosso dei loro profitti non pagando le tasse nei singoli paesi. Quindi vedete che quando poi un governo va a parlare con, che so, Yahoo o Google che sta per lanciare una grande piattaforma cloud che si chiama Stadia, quelli sono giochi su cui i profitti sarà molto difficile stabilire come pagare le tasse, no? Ecco, a un certo punto questi signori si siederanno a un tavolo con i nostri governi e i nostri governi torneranno dicendo di aver fatto una piccola manovra economica trionfanti perché hanno ottenuto il pagamento di, che so, 500 milioni di euro di tasse, in realtà per loro sono una bazzecola rispetto a quello che dovrebbero pagare, e questo equilibrio, che è l'unica cosa che veramente minaccia la loro industria, è retto in piedi da un enorme sforzo di pubbliche relazioni che Google, Facebook e le varie aziende che operano nell'industria dei videogiochi stanno compiendo. Quindi attenzione ai racconti, al racconto dei media che tende a riportare i vostri occhi là dove non cadono più tanto facilmente, e il racconto dell'industria videoludica attraverso l'enorme investimento in pubbliche relazioni. Questo è uno dei più recenti e letti articoli sui videogame, è uscito soltanto 8-9 giorni fa su una delle testate più autorevoli in assoluto in Italia che abbiamo, credo, internazionale, che io leggo regolarmente. E vorrei leggervi però il commento di uno psicologo, psicoterapeuta dell'età evolutiva che si chiama Alberto Roschetti, quando ha letto questo articolo intitolato La trappola dei videogiochi. Tra l'altro Roschetti è autore di diversi libri proprio sul rapporto tra giovani e social media e in generale anche sulla incomunicabilità che c'è tra le generazioni su questo tema. Dice Roschetti: mi sono venuti tanti dubbi nel leggere questo articolo su Internazionale. Certe volte ammiro le persone che hanno le idee così chiare. Resta il fatto che parlare di dipendenza in adolescenza è molto problematico, che se vivessimo in una società più inclusiva, tutte queste trappole non funzionerebbero così bene. Proprio qualche giorno fa, una docente mi ha chiesto cosa fare con un ragazzo di 12 anni che passa tanto tempo davanti ai videogame. Una docente brava, appassionata, attenta. Le ho risposto di non lasciarlo indietro, mai, di fare di tutto per dargli un posto tra i compagni, di appassionarlo. Magari, perché no, di fargli fare delle ricerche su Fortnite da presentare alla classe. È molto più semplice definirli semplicemente dipendenti. Ma in questo modo non facciamo altro che spingerli fuori, verso l'esterno, verso le loro camerette. E invece dobbiamo tenerli dentro. Poi, certo, possiamo discutere sui mezzi che certe aziende di software usano per fidelizzare i clienti, per spingerli a spendere sempre di più, cercare di tenerli attaccati allo schermo. soprattutto quando ci si rivolge a un pubblico di adolescenti e giovani. Però attenzione, aggiungo io alle parole che condivido di Alberto Rossetti, la stessa attenzione va rivolta non solo verso l'industria videoludica, ma verso chiunque cerchi di tenere chiusi dei recinti mediatici all'interno dei quali far riverberare, per esempio, l'odio online di cui parlava Rosy Russo prima. Perché purtroppo quello che sta succedendo, e nella relazione allegata ai lavori di questo convegno c'è una tabella un po' che lo spiega, è che i nuovi modelli dell'industria dei nuovi media non sono affatto così diversi dai modelli che per anni hanno governato l'industria precedente. Si tratta ancora una volta di presidiare l'attenzione. L'industria, per esempio, televisiva aveva la garanzia di ottenere il presidio dell'attenzione perché controllava la catena distributiva. Se non sali sul mio traliccio, sul mio satellite, nessuno ti vede, non esisti. Ok? Il mondo dei social media fa la stessa cosa grazie all'algoritmo. Oggi, se vuoi avere una relazione sociale online, tendenzialmente, almeno la nostra generazione finisce su Facebook, i ragazzi più giovani vanno su Instagram, su TikTok. Ma perché dobbiamo stare dentro dei recinti quando là fuori ci sarebbe un grande mondo con tante altre opportunità? Perché lì dentro noi, se riescono a tenerci lì dentro presidiando l'attenzione, riescono a liberare maggiori quantità di dati che rivendono agli inserzionisti. Quindi si tratta ancora una volta di fare soldi garantendo a degli inserzionisti che i nostri occhi si poseranno in certi posti. È esattamente quello che è successo per decenni con gli spot pubblicitari. Non c'è questa rivoluzione, non c'è il mercato dei dati e non c'è neanche questa corbelleria del mercato che sei tu. Perché anche prima il mercato eri tu. Anche prima Nielsen rilevava l'audience con delle macchine molto più semplici che si chiamavano meter a campione, e quei pochi dati grezzi venivano rivenduti agli inserzionisti. Oggi semplicemente il numero di dati ha fatto una scala gigantesca, parliamo di big data, ma si tratta ancora una volta di chiuderci in dei recinti. Internet è esattamente il contrario, internet sarebbe un mondo aperto, ma ancora nessuno è riuscito a creare modelli di business aperti. Perché? Perché le aziende di venture capitalism, che sono le ultime a cui io chiederei un consiglio su dove fare evolvere l'industria dei media, capiscono solo i vecchi modi di fare soldi. Quindi Facebook, Twitter, alla fine hanno costruito degli algoritmi che sostituiscono i vecchi palinsesti. Un venture capitalist questo lo capisce. Gli occhi delle persone vanno lì, io ti do dei soldi, tu continui a sviluppare la tua piattaforma, dominerai il mercato. Ok? Finché chi ha i soldi per far andare avanti questo business ragionerà in questo modo, non avremo nuovi modelli di business e avremo ancora camere dell'odio sui social media. Torniamo però per un attimo ai videogame. C'è anche da dire che nella visione comune dell'industria videoludica i giochi pericolosi sono i giochi, diciamo, violenti, come Fortnite, come Call of Duty, Modern Warfare, ancora di più Black Ops 4, sono le ultime versioni della serie Call of Duty, che sicuramente sono giochi violenti, estremamente realistici. Mentre quelli innocui sarebbero Candy Crush, i puzzle e così via, che sono quelli più giocati dagli adulti. Ora, su questo io vorrei anche dire che però, se guardiamo negli Stati Uniti, in realtà le persone oltre i 35 anni sono molto di più di quelli che pensiamo che usano i videogame, ma soprattutto le persone anziane che detestano i giochi violenti e usano invece molto i puzzle come Candy Crush, eccetera, non usano la parte che io ho cerchiato in rosso, cioè tutte le funzioni sociali del videogame. Cercano proprio l'isolamento e quindi vedono automaticamente nel videogioco un isolamento. Non gli interessa incontrare altre persone, non gli interessa l'online, non gli interessa il multiplayer, non gli interessano neanche le chat dove dicono parolacce, no? Di cui parlava prima il professor Perlai. No, perché sono in un mondo che per loro è protetto, però non contiene al suo interno una relazione sociale. Non contiene regole condivise, sono solo le regole del gioco. Ecco, vorrei farvi riflettere su questo, perché c'è un grosso pericolo in realtà di isolamento proprio anche nel gioco dell'ultra 55enne. che è un po' lo stesso meccanismo delle signore molto anziane che vediamo negli angoli bui dei bar che usano le macchine, come si chiamano, il videopoker e compagnia. Non è molto diverso. Mentre, che cosa fanno i ragazzi su Fortnite? Sì, su Fortnite liberano i loro peggiori istinti. Se leggiamo le loro chat sono piene di parolacce, ma spesso parlano nel microfono anche ad alta voce, come racconta il professor Pellani, il posto che sono riuscito anche a leggere prima mentre parlava e che condivido naturalmente. Però vedete, quella quantomeno è un'esperienza videoludica che contiene al suo interno un investimento emotivo in un racconto complesso, strutturato, con delle regole, la parola regole che ha citato Rosy prima, è un po' come l'hockey su ghiaccio, uno sport violento, ma ha delle regole e anche dei valori. Ci sono persino delle regole non scritte che non fanno parte del regolamento dell'hockey su ghiaccio, cioè come si gestisce una rissa in un hockey su ghiaccio. Quando getti i guanti, l'altro deve gettare i guanti. E comunque non cerchi di mandare all'ospedale l'avversario, cerchi solo di ottenere il suo rispetto. Infatti poi alla fine tutti, un po' come nel rugby, diciamo, tornano a stringersi la mano. Non c'è veramente il terzo tempo nell'hockey, però insomma c'è un clima sicuramente migliore. Ora, io non voglio paragonare Fortnite con tutte le sue bestialità all'hockey su ghiaccio, però quello che vi voglio dire è che lì dentro c'è una cosa che per i ragazzi somiglia molto a una serie TV interattiva, cioè hanno fatto un investimento in un racconto strutturato, mentre Candy Crush è davvero una soddisfazione effimera, immediata, è per noi un riempitivo, ci ricorda che siamo soli in quel momento, stiamo sfruttando un tempo morto, e noi questo lo consideriamo innocuo, in realtà ci crea una dipendenza molto alta, molto elevata. Insomma, proteggiamo i ragazzi, ma proteggiamo anche le persone anziane, questo voglio dire. E poi c'è il fenomeno degli sports, che giustamente spaventa, preoccupa molto chi si occupa di sport analogico, di diffondere i valori dello sport, perché sentono questa ondata montante del videogame vissuto come una disciplina sportiva. Io devo dire, non sono molto d'accordo con il Comitato Olimpico quando qualche anno fa ha riconosciuto i videogame come una disciplina sportiva, e forse non sarei stato d'accordo nemmeno quando hanno riconosciuto gli scacchi come una disciplina sportiva. Però ecco, quello che voglio dire è che questo ha molto a che fare ancora una volta con questo antichissimo concetto che è l'audience. Il fenomeno sta crescendo perché ci sono canali televisivi che fanno vedere quanto sono bravi alcuni personaggi che poi diventano delle celebrità con alcuni videogiochi. Negli Stati Uniti c'è Twitch, che è un'applicazione e ormai anche un canale televisivo che tira su milioni e milioni di eyeballs, da rivendere ancora una volta agli inserzionisti, dove semplicemente si guarda qualcun altro che sta videogiocando. E da noi una delle maggiori celebrità giovanili su YouTube, che è FaVJ, è diventato così famoso perché condivideva le partite dei videogame che giocava, tra l'altro dicendo parolacce tutto il tempo, quindi creando un codice che ancora una volta è il codice della parolaccia. In quel caso si potrebbe dire anche scherzosa. Però non sono affatto sorpreso di vedere i seguaci di FaVJ poi passare tutto il tempo davanti alla televisione a dire parolacce. Tra l'altro, ecco, una cosa che vorrei dire è che una volta ottenuta la celebrità, questi youtuber imparano il peggio dalla nostra generazione, dalla generazione precedente, che non appena acquisisce un minimo di celebrità smette di essere creativo. Cioè, se tu guardi i primi video che pubblicava FaVJ, erano davvero creativi. A un certo punto lui ha capito che la cosa che serviva di più era insultare i propri hater, quindi rispondere con l'odio all'odio degli invidiosi del suo canale, farsi vedere con altre celebrità come del web, come Lili Meraviglia o altri, quindi creavano delle feature, no? Dei featuring tra di loro. Ecco, questo è un meccanismo che somiglia molto alla nostra televisione. Siamo noi ad aver insegnato a questi ragazzi come si gestisce la linea rossa della celebrità. Quando superi quella linea non importa più essere anche un grande critico d'arte, conta insultare l'interlocutore, così continua ad essere celebre. Non importa, mi dispiace dirlo, più essere un bravo virologo, conta insultare l'interlocutore e dirgli che è un idiota, che è una capra. Capra è una parola televisiva molto antica, che ritorna. Allora, noi ragazzi stiamo insegnando questo: una volta che tu diventi visibile, non conta più essere creativi, puoi anche buttare internet, la internet creativa e della diversità culturale di cui parlava, vaneggiava forse Lawrence Lessig, no, quella non ti serve, internet è come la televisione, tu devi stare lì e presidiare l'attenzione e continuare a essere una celebrità. E anche i videogiochi assecondano questa regola, tu sei, devi diventare una star dei videogiochi, non è più un'esperienza sociale, ci sei tu e ci sono, e c'è la tua fan base. Questo stiamo insegnando ai ragazzi. E purtroppo, e lo dico da tifoso della Roma, molto deluso da come si comporta la mia società in queste circostanze, lo stiamo insegnando anche a chi pensa di fare un'opera buona. Per esempio, abbiamo visto prima le splendide campagne del Milan e dell'Inter contro il razzismo. Cosa fa la Roma? Volendo fare una cosa simile, perché anche la Roma ha parecchi giocatori oggetto di questi bu, eccetera, cosa fa la Roma quando deve difendere Juan Jesus, il suo difensore? Fa la gogna, cioè pubblica una foto con le facce degli odiatori di Juan Jesus. Praticamente incita i propri tifosi buoni a restituire odio nei confronti dei tifosi cattivi. Non è molto diverso da quello che faceva Selvaggio Lucarelli quando invitava, faceva la telefonata per radio a chi gli rivolgeva insulti sessisti. Ma vedete, se lo fa Selvaggio Lucarelli, che ha come obiettivo quello di continuare a stare sulla cresta dell'onda, e infatti si regge su questo il suo format radiofonico, può anche stargli bene, perché fa parte di un'industria che funziona in questo modo. Però quando lo fa la Presidente della Camera comincia a stargli un po' meno bene. Vi ricordate cosa successe con la Boldrini? All'inizio non diceva andate a denunciare l'odio, metteva le fotografie, gli screenshot delle persone che la odiavano. Quando subite un illecito online, un illecito penale, un'istituzione deve dirti vai a denunciare perché c'è uno Stato e ci sono delle leggi che ti proteggono. E invece stiamo educando i nostri figli a rispondere con degli screenshot, a rispondere con dell'odio contro l'odio. E stiamo sbagliando. Per chiudere, perché anche io non voglio rubarvi troppo tempo, non sto a spiegarvi questa terrificante tabella che feci circolare a Parole Ostili a Trieste qualche mese fa, e che spiega esattamente perché il modello dei vecchi media e il modello dei nuovi media non solo sono molto simili, ma addirittura abilitano in prima persona il circuito dell'odio. L'odio è stato il petrolio dei vecchi media per gli ultimi 30 anni e sta diventando il petrolio dei nuovi media, non si sa ancora per quanto. Se non spezziamo il modo in cui con queste piattaforme facciamo soldi, non ne usciremo mai. Emily Bell, che dirige il centro di ricerca sul giornalismo dell'università, oddio mi dimentico sempre di quale città, poi magari lo andrò a ricercare, lo dirò, dice che il problema è che non potremo mai avere un sistema dei media veramente libero da questo circuito finché la fonte di ricavi saranno le inserzioni pubblicitarie. È un'affermazione molto forte che però personalmente mi sento di condividere, ma soprattutto, aggiungo, tornando all'industria videoludica, dobbiamo renderci conto che pensare a questa industria come qualcosa di cattivo che agisce per malvagità e che dobbiamo ascoltare invece il discorso dell'industria precedente per venirne fuori è esattamente quello che allontanerà per sempre le nuove generazioni che ragionano con dei nuovi codici dalla nostra capacità di capire i loro problemi. Quindi dobbiamo entrare, come ha detto giustamente anche Rosy, dobbiamo entrare sui social, dobbiamo entrare anche nelle loro vite online, perché lì stanno costruendo le loro vite reali, lì costruiscono i loro circuiti reali. Mia figlia tutte le domeniche va in Piazza del Popolo con 20 persone che ha conosciuto sul gruppo Instagram dei fan dei 21 Pilots, che è la band preferita da mia figlia. E dentro questo circuito poi nascono amicizie, forse anche fidanzamenti. Si è creata intorno a un interesse comune un circuito sociale con delle vicende reali. Non isoliamoli in mondi che viviamo come ostili e quindi pensiamo di non poter codificare. Dobbiamo cercare di capire cosa succede lì dentro, non farci schiacciare dal racconto interessato dei media su quello che sta succedendo, e neanche subire il riflesso di pubbliche relazioni dell'industria dei videogiochi. Queste sono un po' le tre regole che vorrei che rimanessero alla fine di questa giornata. Grazie.